Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. E ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, come sempre, è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, poi dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi come sempre per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. L'hashtag sempre per chiusa Twitter, il sabato del villaggio, lo diciamo tutti i sabati, è un po' lungo, allora usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Torna nel nostro sabato del villaggio il gastronauta, questa volta con Davide Paolini parliamo di cene a casa, ma molto molto particolari, e andiamo a fare un viaggio a Bergamo. Nella prima ora anche le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parliamo di videogiochi. Tanto, tanto cinema con le uscite in sala del weekend, ma soprattutto con l'arrivo sul grande schermo del più grande fenomeno del momento. Favi Jane. Anima. Soda. Si vede per caso. Hai la maglietta? Sì, volevo farmela autografare. Però sono un po' male. Soda. Soda è Soda. Ma come mai vi piacciono? Cosa hanno di speciale? Cioè, Lorenzo c'ha tutto di speciale. Proprio. Non lo so. Perché? A me mi fanno sorridere qualsiasi cosa. A me fa troppo divertire Anima, quindi è una persona. Magari fosse il mio amico Anima. No, come sto amico qua, quello cattivo. Io vorrei Anima, no? Lì. Però vabbè. Ragazze, vi posso chiedere di chi siete fan in particolare? De Carli, Soda e Greta. Greta Menchi. De Carli. Che cosa di speciale? Fa ridere, poi la sua faccia da castoro è meravigliosa. Io lo amo. Ma tu guardi di più la televisione o i video di YouTube? I video di YouTube. Ecco. Tutto questo è successo a Roma, alla Festa del Cinema, ragazze in delirio, non solo ragazze ma soprattutto ragazze in delirio per i big di YouTube, Favi Jane, Federico Clapis, Leonardo De Carli e Zoda, che sono arrivati questa settimana al cinema con Game Therapy, un film fatto apposta per lui, in cui il protagonista, che è Favi Jane, Lorenzo, è un ragazzo che si rifugia in una realtà fatta di videogiochi, ma che poi in questa realtà fatta di videogiochi entra. Allora, siccome so che all'ascolto ci sono non solo i ragazzi, ma tanti genitori, ecco, sentite i ragazzi e i genitori, soprattutto i genitori che accompagnavano i ragazzi alla Festa del Cinema di Roma, all'Auditorium Parco della Musica, eccoli qua. Mia figlia ha 11 anni e mezzo. E quindi guarda YouTube a tutto spiano? Sì, abbastanza. Lei cosa ne pensa? Beh, io penso che comunque è una cosa che le tiene vive, le tiene interessate, però logicamente bisogna trovare un limite, bisogna trovare un margine, perché ci sono tantissime attività importanti a cui devono far fronte, per esempio la scuola, che oggi è stata marinata. Per un giorno si può, tanto anche noi avevamo i nostri idoli. Ai nostri tempi sì, assolutamente, quindi ritengo che ne sia valsa la pena per lei, un ricordo che si porterà fino a quando è grande. Vedo che stai accompagnando qualcuno, tuo nipote. Sì, nipote. Che cosa ne pensi? Non so proprio che pensate, lo giuro, è un mondo nuovo per me. Cioè sei giovane ma è 40. Quindi giovanissimo, 40 però già un altro mondo. Un altro mondo, assolutamente non ne conosco neanche uno di queste. Cioè qui ho visto bambine leggere, ragazze che piangevano. Ai tempi miei si mangiava per Johnny Depp, che ne so, boh. Penso che sia una cosa che forse noi genitori non riusciamo a cogliere appieno, però è proprio il loro divertimento di oggi. Un po' volgare forse, però è divertente, a tratti è divertente. Suo figlio, più televisione o più YouTube? Più televisione ancora. Ah, uno almeno. Almeno uno. Eccoli qua i genitori dei ragazzi che abbiamo sentito prima, tutti all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove è stato presentato in anteprima e poi è uscito questo fine settimana Game Therapy, questo film interpretato dagli youtuber, le star del momento. Noi abbiamo in collegamento un personaggio che io ammiro molto, perché lui è lo scopritore di tutti questi talenti, però è anche produttore di questo film e anche l'autore, uno degli autori del soggetto di Game Therapy. Buongiorno a Luca Casadei. Luca, buongiorno. Buongiorno Marta. Eccolo qua, CEO di Web Stars Channel, lo dobbiamo dire, che è un po' la factory nella quale tu li noti, li fai crescere. Ma tu come hai vissuto l'avventura romana? C'era davvero un'atmosfera da idoli, da rockstar anche di più? Ma l'ho vissuta come una bella opportunità per stare tutti insieme, quel calore, quell'amore, quella magia che trasmettevano i ragazzi che erano lì, e quella che fortunatamente tutti i giorni, quando camminiamo in mezzo alla strada, vediamo questi ragazzi, c'è sempre questa bellissima energia e ogni web star è sempre a disposizione per stare ore e ore a fare foto. Infatti non si può passeggiare, perché se tu vuoi andare in un posto con uno di loro non ce la farai mai, perché loro, finché non fanno la foto con l'ultimo fan, non se ne vogliono andare, ed è la cosa magica che non succede magari in altri mondi. Quindi è stato bello, e ascoltavo le reazioni dei genitori ed è esattamente quello. Un genitore, dicevo, io non ne conosco neanche uno di loro, è proprio è un nuovo mondo, questi ragazzi che guardano YouTube come loro primo media, si identificano molto in questi ragazzi della porta accanto, e questo film è un film proprio a target per parlare a questo tipo di pubblico, un film che magari un adulto potrebbe non capire perché non conosce questo mondo, e lo consiglio anche a tutti gli adulti, perché si possono rendere conto di quale mondo frequentano i loro figli passando del tempo durante la giornata guardando i social network e guardando i contenuti di questi ragazzi. Luca, sono molto d'accordo con te, io consiglio a tutti i miei coetanei, genitori e anche non genitori, di guardare su YouTube i loro video, cioè Clapis, Favij, De Carli e Zoda, perché secondo me è un mondo totalmente diverso da quello delle generazioni che li hanno preceduti, ma è un mondo che è necessario conoscere. Noi avevamo come idoli, tra virgolette, i personaggi appunto della TV, del cinema. Questo ragazzo di 40 anni diceva: le mie coetanee piangevano per Johnny Depp. È utile per i genitori e non solo, per quelli più grandi, per quelli della nostra età, capire e guardare e scoprire cosa fanno questi ragazzi su YouTube. Questi sono anche molto bravi, peraltro. Sì, guardando questi ragazzi, ma come molti altri, come Greta Menchi, come Anima, che hanno nominato appunto alcuni dei fan che avete intervistato, sono un po' uno spaccato di questa nuova società. Quindi molte volte i genitori si ritrovano a passare del tempo con i loro figli, ma non riescono a guardare appieno nel mondo che loro vivono e che frequentano. Invece guardando la rete o guardando Game Therapy, per il linguaggio soprattutto, hai esattamente uno specchio perfetto di quello che è la società di oggi, che è una società molto semplice, molto esattamente come appunto i contenuti dei ragazzi, che ti vogliono regalare poi alla fine un sorriso, perché qualsiasi video di gameplay, di entertainment, di tutorial, lo scopo finale è quello di regalarti un sorriso, di passare un momento allegro. A volte è vero che c'è un minimo di linguaggio scurrile, o meglio qualche parolaccia, ma se la web star non dicesse la parolaccia non si sentirebbe neanche identificato. Non sarebbe la lingua che parlano i ragazzi, qualche parolaccetta scappa. Parlano la lingua di chi li ascolta. Certo. Sì, cerchiamo di limitarle, perché ci rendiamo conto che sempre di più questi ragazzi vengono seguiti, emulati, vengono comunque un po' idolatrati. È un termine che detesto, perché non sono degli idoli, sono dei ragazzi esattamente come chi li guarda. E quindi consiglio sempre a tutti alle nostre web star di moderare il più possibile il linguaggio, perché dobbiamo comunque dare anche un taglio educational molto importante. Ecco, infatti io questi ragazzi ho avuto la fortuna di incontrarli a Roma, e tra l'altro mi sono vergognata tantissimo, ma ho dovuto chiedere di fare una foto insieme a loro, perché se non l'avessi mandata subito via WhatsApp ai miei nipoti si sarebbero arrabbiati tantissimo. Ho dovuto subito fare la foto, una cosa imbarazzante che lo faccio mai. Intanto ho chiesto loro che cosa hanno provato di fronte a questo fenomeno del Festival di Roma. Eccoli qua, le web stars di Game Therapy, Favi J, Federico Clapis, Leonardo De Carli, Zoda, eccoli. È nato tutto per gioco, era una novità in Italia, la vedevamo magari molto spesso all'estero e quindi abbiamo voluto metterci anche noi nel fare un qualcosa di così nuovo ma così bello. Esattamente, ci siamo messi in gioco senza essere troppo presuntuosi e adesso speriamo, ce l'abbiamo messa tutta quanta, abbiamo faticato, abbiamo studiato e adesso incrociamo le dita e speriamo che piaccia a tutti i nostri ragazzi che dal computer ci guardino adesso al cinema. Io non ho mai pensato al web come una sorta di trampolino di lancio. Io faccio video su videogames come li faceva Daniele Zoda e niente, siamo arrivati qua oggi e è tutto un va bene, ok, grazie mille, però non ci saremmo mai aspettati tutto questo e nessuno ha iniziato perché voleva arrivare fino qua. È successo un qualcosa più grande di noi. È stato tutto una sorpresa, infatti non vi so neanche dire dove andremo a finire a questo punto, però tutto ciò che di buono verrà noi saremo pronti a coglierlo. Abbiamo parlato di messaggi che inevitabilmente questi ragazzi lanciano più o meno volontariamente ai ragazzi che li guardano attraverso YouTube. Ecco qua quello che hanno risposto quando abbiamo chiesto loro quali sono i messaggi che vogliono e che non vogliono far passare. Ecco qua. Noi abbiamo un seguito molto, molto forte di ragazzi che ci ascoltano, che ci lasciano messaggi, che si confidano con noi, quindi senza dubbio prendono le nostre parole come veritiere, quindi sì, dobbiamo stare non attenti, super attenti ai concetti che facciamo passare, perché facendo passare concetti negativi si rischia di ovviamente fuorviare le idee dei ragazzi. Tra i messaggi c'è anche il fatto che molti ragazzi sognano di fare gli youtuber, lo sapete? Sì, bene, questa è la domanda per te. Esatto, non sappiamo mai dare. È sicuramente una miniera d'oro che ci abbiamo tutti quanti dentro casa e che dobbiamo riuscire a sfruttare per bene, perché incrociando le dita prendi l'onda giusta e capisci quello che piace al tuo pubblico, diciamo, lo fai fatto bene. Però tornando al discorso delle cose che dei messaggi che cerchiamo di dare, penso che tutti noi ci impegniamo molto spesso anche con un piccolo video ad esprimere il nostro, diciamo, parere su un argomento, come per esempio faccio proprio quello più commerciale, il bullismo, più commerciale, però molto spesso riceviamo, io almeno personalmente ricevo messaggi da ragazzi, da teenager che subiscono queste cose e grazie, sempre stretto tra mille virgolette, grazie ai nostri video riescono un po' a rilassarsi, a non pensare purtroppo a quello che un ragazzino di 14 anni adesso è come adesso, magari non tutti quanti, lo spero, però è qualcosa di negativo che uno subisce a 14 anni e lo sfoga grazie a noi, ecco. Sono dei bravi ragazzi, sono molto carini queste web star, questi sono veramente, hanno dei numeri su YouTube, un numero di follower veramente impressionante. Noi abbiamo sempre in linea Luca Casadei, io l'ho detto CEO di Webstars Channel, lui fa il talent scout, ha proprio un laboratorio, una factory per farli crescere. Luca, tu come li noti in rete? Che cosa hanno di speciale questi ragazzi che tu noti e che poi accompagni magari facendoli seguire da quelli più grandi per capire come imparare, come realizzare i video su YouTube? Come dicevano prima appunto i ragazzi, ormai è diventata una moda volere diventare uno YouTuber, perché quando YouTube è nata nel 2006 era un qualcosa di totalmente nuovo, quindi quando ho cominciato c'erano molte meno persone, oggi ci sono decine di migliaia di ragazzi che tutti i giorni fanno contenuti e abbiamo noi delle persone che monitorano tutta la rete, tutti i giorni, tutto ciò che di nuovo esce e mi segnalano tutto quello che secondo loro ha un rendimento atipico e io guardo se queste persone hanno l'X Factor, se hanno avuto fortuna, se hanno fatto un contenuto e magari hanno fatto una parodia di, non lo so, di Miss Italia, di quello che è il tormentone della settimana, hanno fatto numeri solo per quello, quindi continuo a seguirli e vedo se continuano a rendere anche nei contenuti successivi. Chi fondamentalmente ha ha quel carisma e la personalità. Il talento è quello, è carisma e personalità. Questo vale nella musica, vale in televisione, vale dappertutto. Se non hai un physique jewel, se non sei qualcuno che trasmette qualcosa, è molto difficile fare engagement, che è un termine molto social, per coinvolgere il pubblico. Quindi dal momento in cui troviamo degli embrioni vincenti, perché cerchiamo di prendere questi ragazzi assolutamente agli albori, all'esordio, quando fanno il loro primo video, dopo gli diamo degli strumenti per crescere. Quindi molti di loro sono giovani, molto giovani, vanno a scuola ed è la priorità assoluta. Quindi magari nei fine settimana o durante le vacanze li facciamo venire, o tra Milano e Roma li facciamo stare con gli youtuber più grandi, che gli insegnano appunto a montare, a dare un ritmo diverso a quello che è il loro talento, che magari loro stessi non sanno di avere dentro e non sanno sfruttare. Cerchiamo con loro di guidarli per farglielo tirare fuori. Questo è un po' l'obiettivo della Factory Webstar Channel. Luca, è un mondo che dobbiamo conoscere assolutamente. Spero che prima o poi, dopo questo delirio di Game Therapy, tu possa venirci a trovare in radio, perché ci devi un po' aiutare a capire questo mondo. Abbiamo dato qualche suggerimento, qualche lampo, soprattutto ai genitori che ci stanno seguendo. Noi ti aspettiamo, quando ti va a venirci a trovare e ci racconti un po' di più di questo mondo, siamo contenti, se ti fa piacere, Luca. Do un'ultima informazione, sì, in chiusura, e ti ringrazio moltissimo per l'ospitalità, come sempre. Ieri è uscita la prima rivista Webstar Magazine che porta il mondo della rete su carta, quindi qualsiasi genitore la potrà guardare, un po' il Cioè dei nostri tempi, che Cioè si era ingiovanito, e quindi abbiamo fatto una rivista per un target teenager, maschile e femminile, e può essere uno strumento in più per lustrare meglio il nostro mondo. Ma sono molto felice di venirti a trovare molto presto. Ma grazie. Sono molto contenta, grazie Luca Casadei, a presto Luca. Noi ci troviamo tra poco, perché c'è già qua Davide accanto a me, Davide Paolini. Solo qualche momento per le informazioni per chi sta viaggiando, e poi parliamo finalmente anche di cibo, tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Il sabato del villaggio. E ci siamo, entriamo in atmosfera, perché è il momento di parlare col nostro gastronauta, che questa volta introdurrei così. Ti porto a cena con me, il tuo passato non è invitato, lascia a casa le pene, se me lo sono un po' meritato. Ti porto a cena perché vorrei che tu mi togliessi il fiato, riaverlo indietro da te, come se fosse il mio compleanno. Beh, Davide, ti porto a cena con me, eh? Beh, sì, però oggi ho scelto un argomento che proprio non mi sento di portarti a cena a casa di sconosciuti oppure a casa delle cesarine. Ah, dice che al primo appuntamento cena ristorante. Beh, cena ristorante, okay, perché okay, questo magari dopo anni. E devo dire che però questo fenomeno sta imperversando, anche se l'ufficio delle entrate e la guardia di finanza sono lì con occhio vigile. Perché cosa sta succedendo? Sta succedendo che in tantissime famiglie, io credo per arrotondare, diciamo, le entrate familiari, molti sostengono che lo fanno anche per passione, si sono messi a fare il ristorante a casa. Però un ristorante a casa che non ha le insegne, quindi non è difficile trovare, devi andare sulla rete oppure per il tam-tam passa parola. È una famiglia che invece di dar da mangiare, che ne so, agli amici, dà da mangiare ai perfetti sconosciuti che pagano. Quindi come la macchina di Uber che uno mette a disposizione, adesso quella forma lì non è più tanto consentita. No, direi colore invece è uguale a chi dice domani vado a Milano, mm-hmm, e mette un annuncio e dice, certo, se c'è qualcuno che vuol venire, che mi dà un passaggio, oppure io do un passaggio e dividiamo, certo, le spese. Certo. Questa è un po', però devo dire che credo, a quanto capito, ci sono stati anche qualche personaggio che se ne è un po', come posso dire, avvantaggiato da questo e ha messo in piedi a casa una propria vera industria, cioè tutti i giorni si mangia, si paga e si evadono le tasse. Beh, ecco, sai, in sto paese non è che sia molto molto non comune evadere le tasse. E io infatti ora c'è una lotta tra la FIPE, che è la Federazione Italiana del Pubblici Esercizi, che sta facendo una guerra senza quartiere, giustamente, perché questi signori dovrebbero venire regolati in qualche maniera. Però allo stesso tempo, nel 2004, diciamo che c'è stato un precedente molto più organizzato, e quindi sono passati già 11 anni, che si chiamano le Cesarine. Le Cesarine, per dare l'idea di un gruppo di casalinghe, e quindi un gruppo di casalinghe che poi nel tempo anche loro, per evitare così l'arrivo dell'ufficio delle entrate, si sono costituite in associazione, hanno fondato un'associazione che si chiama Home Food, che tra l'altro è patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole. Io non so se il Ministero delle Politiche Agricole ne ha al corrente di questa cosa. Comunque tutto può succedere in questo paese. Ma e questo Home Food cosa fa? È praticamente, ti fanno una tessera di 100 euro, poi paghi mi sembra 25 euro, però sono molto organizzate perché c'hanno in ogni città, si conoscono l'una con l'altra, hanno un network e sono delle brave casalinghe, perché diciamo che devono fare una cucina territoriale, quindi hanno tutta una serie di vincoli e di obblighi, e sono legate anche all'Università di Bologna. Credo che la fondatrice sia stata addirittura una docente dell'Università di Bologna in comunicazione, quindi è stata lei che ha avuto l'idea. E queste proliferano, perché tante volte io ho sentito degli amici che mi hanno detto: guarda che sono stato a Roma, a Torino, invece di mangiare solo e di mangiare in un ristorante che non conoscevo, ho fatto il numero e sono andato a mangiare da una delle Cesarine. Quindi non lo so se si fa così per fuggire la malinconia, la solitudine di chi è in trasferta, fuori casa, oppure se si tratta di curiosità. Però il gruppo delle Cesarine è un bel gruppo, e credo che con questo discorso dell'associazione più di si paga 25 euro, io credo che loro siano a posto con quello che sono, diciamo, le entrate, e non ci vuole ricevuta, perché appunto sono un'associazione, certo, culturale, come succede in tante associazioni culturali. Mi dicono comunque che da qualche Cesarina in giro per l'Italia veramente si faccia ottima cucina, abbia delle specialità, quindi non lo so, chi volesse provare, io non garantisco ovviamente. Non c'è, prende la responsabilità. Io non ci sono mai stato, quindi devo dire che non so. Però ecco, qui non ti porterei a cena perché purtroppo non conosco, però ora prossimamente racconterò delle cose che sicuramente in uno di questi posti ti potrei portare a cena con grande soddisfazione. Ah, andiamo a fare un giro già? Andiamo a fare un giro. Allora entriamo anche qui un po'. Andiamo, senti qualcosa ho tirato fuori. Bergamo, è un po' un sinonimo, Donizetti Bergamo. Poi sai che a Milano è nato un ristorante della moglie di Pavarotti. Ah, vedi? Sì, è nato un ristorante della moglie di Pavarotti che fa cucina di specialità modenese. Lui era ci porteremo grande Pagliarini, certo, per controllare se è modenese, vero? Poi glielo diciamo. Lui era un grande appassionato, per cui non so come si mangia, però esiste questo ristorante. Abbiamo sentito la bergamasca, ecco, viene chiamata bergamasca, no? Non solo Bergamo, ma darò anche qualche indicazione, diciamo, fuori Bergamo. Faccio subito una premessa: nel bergamasco, nei ristoranti, c'è una, secondo me, una grande peculiarità. Si mangia dello straordinario pesce. Ah, sì, c'è qualche ragione per cui si mangia, ecco, del buon pesce a Bergamo, strano, perché il mare non c'è. C'è un commerciante di pesce, un'azienda che si chiama Orobica, che è sicuramente garanzia di grande pesce, quindi tutti i ristoranti sono clienti, o più o meno, di questa azienda, e possono esibire dei grandi ricettari con del grande pesce. Io lo consiglio appunto in questi ristoranti del bergamasco. Allora iniziamo dalla città, iniziamo da Lio Pellegrini. Ecco, Lio Pellegrini, che in realtà si chiama Giuliano, è un toscano di origine, è in un bellissimo posto, è di fronte alla Fondazione Carrara, un locale secondo me di grande classe, dove ci sono soprammobili, dettagli, tutto tutto è curato da questo personaggio che gira il mondo andando a ricercare dei pezzi da mettere sul ristorante, ma anche in cucina è altrettanto ricercato nella materia prima e sui prodotti. Risente delle tradizioni toscane, però fa una cucina italiana molto basata sulla materia prima. È veramente molto piacevole, perché anche lui è un oste molto ma molto piacevole. Poi andiamo a Brusaporto. Brusaporto è vicino all'aeroporto, quindi do anche queste indicazioni logistiche. Esiste un ristorante che si chiama Vittorio. Vittorio è un ristorante famosissimo in Italia e poi anche fuori dell'Italia, perché dicono, ma lo posso garantire, che sia, oltre ad essere un 3 stelle come ristorante, è forse il miglior, mi lancio, il miglior catering italiano, perché sui grandi numeri riesce a fare della qualità che pochi riescono a fare. Qui chi volesse andare a dormire alla mattina si trova con una prima colazione che copre la cena e poi anche il pranzo. Perché ecco, sai che io ho una passione per le colazioni negli alberghi, che secondo me sono... Beh, gli alberghi fanno delle grandissime colazioni, non solo in Alto Adige, perché ce ne sono tanti, ma anche scendendo. Me lo segno, me lo segno. Sì, bisogna segnare. Poi un giorno faremo un itinerario sulle prime grandi colazioni. Guarda, molto bene. In giro per l'Italia. Allora ti dicevo che qui in questo periodo si può mangiare un menù a tutto tartufo, ma oltre a questo chi poi arriva in fondo alla cena o al pasto, perché diciamo ci sono delle grandi leccornie, si arriva alla pasticceria. È una pasticceria straordinaria. Pochi ristoranti hanno una pasticceria come quella di Vittorio. Ora andiamo fuori e andiamo all'Osteria della Brughiera a Villa Dalmè. Villa Dalmè da Stefano Arrigoni, dove anche qui c'è questa ricercatezza del locale, ecco, questa eleganza, questo charme in questo piccolo posto, diciamo in provincia. Però devo dire, ecco, lì è giusto portare qualcuno a cena, cioè andare a due a cena, perché sicuramente è un posto che ne vale la pena. Questa... Diciamo soprattutto ai lombardi, zona Milano, Bergamo, che questa sera una cenetta romantica lì. Cena a lume di candela, qui la consiglio, poi consiglio anche iniziare con uno dei tanti champagne che hanno in carta, e magari anche con due ostriche, si può iniziare anche così. Poi si può proseguire anche con degli ottimi... spaghetti con il pesce, si può continuare con carne, con specialità sempre di pesce. Qui carne e pesce, diciamo, si equivalgono. Come dicevo, è una cucina molto italiana questa. Ecco, a me è un tipo di cucina che credo, anche se era la cucina del passato, sarà la cucina del futuro. Quindi poi sempre fuori Bergamo andiamo a mezzo alla Caprese da Bruno. Ecco, Bruno si chiama la Caprese il ristorante perché lui è un caprese doc, quindi un vero campano, e qui non mancano tutte, diciamo, solo pesce si mangia, e qui ci sono tutte le specialità, ovviamente, come anche a finire con i dolci, tutte le squisitezze della Campania. Quindi si mangiano degli ottimi spaghetti alle vongole, si mangia del pesce crudo, insomma il pesce qui è a 360 gradi, con una cucina completamente diversa da quello che ho detto negli altri ristoranti, perché qui c'è, diciamo, quel fascino della costiera, che è un fascino molto particolare e unico. Devo dire che in tutti questi ristoranti ci sono veramente cantine d'eccellenza, quindi chi va mangia molto bene, ha una grande accoglienza e sicuramente beve anche bene. L'accoglienza la sottolineo perché è un fatto che si sta sempre più perdendo in Italia. I maître bravi sono sempre di meno, o quelli che fanno accoglienza. Qui invece, in questi quattro ristoranti, mi sento di garantire che c'è anche questa. E poi fare un bel giretto a Bergamo è sempre bello, perché Bergamo è talmente bella. Bergamo è affascinante, e andare a Bergamo Alta, anche lì si trovano delle trattorie, delle enoteche, sicuramente dove ci si può fermare per dominare la città dell'alto. Poi quel camminamento per arrivare in alto è veramente fascinoso. Sono d'accordo con te, che bello avere Davide Paolini in studio. Io ti aspetto ogni volta che vuoi venire, ma comunque non ti lasciamo mai andare al Sabato del Villaggio, ogni sabato 15:15. Sono contenta di parlare con il leggendario gastronauta. Grazie per essere Grazie stato a te. Con noi. Alla prossima. Noi ci risentiamo tra poco dopo una breve pausa. Il Sabato del Villaggio. I got a pocket full of quarters and I'm headed to the arcade. adoro questa canzone. Anche in regia ci sono Cristian e Roberta, che un po' ballano, un po' ridono. Questa si intitolava Pac-Man Fever. È una canzone dell'82 che un po' cavalcava questa passione per Pac-Man, una canzone di Buchner e Garcia. Perché parliamo di Pac-Man? Beh, perché intanto qui al Sabato del Villaggio è il momento delle tecnologie. Dovremmo avere in collegamento il nostro Enrico Pagliarini. Enrico, ci sei? Certo, non dovremmo, abbiamo. Ma sì, ma era un condizionale così, cioè, era un condizionale mai, retorico, eh? No? Non ma si sa mai la tecnologia che cosa ti può combinare, no? Come certo. Quelli che ti chiamano e ti dicono, hai ricevuto l'email? E perché non mi ha risposto, cosa che non si può più fare con WhatsApp, perché certo. Ormai non puoi più dire che non l'hai ricevuto, perché la spunta blu ti inchioda la tua responsabilità. Allora Enrico, qui al Sabato del Villaggio, come sempre il momento delle tecnologie, sono giorni caldi per gli appassionati di videogiochi. Sì, se uno passa nella zona della vecchia fiera, quella del Portello, Fiera Milano City si chiama, ci sono tantissime persone. E uno potrebbe pensare, ci sono anche c'è un bel traffico in questi giorni, uno potrebbe pensare è gente che va all'Expo, perché quella è la strada che poi porta a Expo. In realtà buona parte di queste persone, che sono poi ragazzi abbastanza giovani, poi lo scopriamo, vanno alla Games Week, che è una manifestazione alla Fiera di Milano dedicata al videogioco. Abbiamo accennato a Pac-Man perché ieri c'era l'inventore di Pac-Man, e direi, per quanto mi riguarda, quello è il massimo a cui io riesco ad arrivare. Tu, cioè, dopo Pac-Man non hai più giocato? Sì, ho giocato ogni tanto qualcosa gioco, però diciamo il livello di gioco è quello lì. Allora, a questo punto io, visitando i padiglioni, diciamo, Games Week, ho visto cose per cui non capivo nulla, e allora abbiamo pensato di coinvolgere un esperto, Emilio Cozzi, che tra l'altro, a proposito di Pac-Man, ha intervistato l'inventore di Pac-Man proprio ieri sera alla Fiera di Milano. Emilio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno Enrico, è tutto vero quello che dici, è vero, l'ho intervistato ieri, il pezzo uscirà domani per Nova, e insomma tu dici che hai giocato solo a Pac-Man, o meglio ti sei fermato a Pac-Man, ma fermarsi a Pac-Man vuol dire non avere mai smesso, perché Pac-Man è un'icona culturale pop che dura da 35 anni, cioè quest'anno compie appunto il 35esimo compleanno. Tori Uetani, il suo ideatore, era proprio ospite d'onore alla Games Week e ha raccontato una cosa che vi lascio perché è eccezionale. Hai inventato il gioco, cioè un po' d'Italia, una volta mangiando una pizza, dopo averne tolta una fetta, si è reso conto che quello che aveva davanti 35 anni fa a pranzo era il futuro del videogioco, cioè appunto l'icona pop tra le più famose del mondo. Ricordo che è uscito 2 mesi fa un film, Pixels, in cui ancora c'è Pac-Man. Sì, sicuramente uno dei grandi giochi, è un po' il videogioco, o comunque sicuramente per una certa fascia di età. Ecco, se oggi dovessimo definire il o i videogiochi per i nativi digitali, i giovani di oggi, io ho visto che in questa Games Week c'erano proprio dei ragazzini. Sì, tra l'altro abbiamo appena parlato degli youtuber con il film Game Therapy. Gli youtuber, c'è proprio una categoria di gamer, di ragazzi che si filmano mentre giocano, quindi ancora più complesso. Sì. Assolutamente sì, se dovessimo identificare un videogioco, come dire, moderno, la difficoltà sarebbe proprio nel capire intanto, come dire, i confini del videogioco. Il videogioco oggi ha, come dire, non ha più confini, è polimorfo, va ad applicazioni che vanno dalla medicina addirittura o alla finanza, fino ai videogiochi che tutti conosciamo come FIFA, come Battlefield. Insomma, il videogioco ha veramente una spaziatura complessissima. Dice bene Marta quando dice che gli youtuber in qualche modo appunto sono figli di quella cultura, perché youtuber vengono alla ribalta proprio mostrando i loro gameplay, le loro partite. Ma pensate che, e questo la Games Week è presente, c'è una nuova compagine crescente di videogiocatori che lo fanno per attività competitiva professionistica. C'è addirittura un registro in Italia, il CEC, riconosciuto dal CONI, che sta mettendo appunto all'albo, sta, come dire, censendo tutti i videogiocatori professionisti per farne prima o poi degli sportivi, chissà, magari all'Olimpiadi con il pad e con la tastiera invece con la racchetta e il pallone. Io posso presentarmi per Candy Crush, perché sono arrivata al massimo dei livelli. Sono olimpionica di Candy Crush. Sì, io sono olimpionica di Candy Crush perché sono, aspetta che sto guardando, al 1256, quindi sono ben piazzata. Sono a zero. Enrico, ti ho interrotto prima. Ti faccio una domanda sull'hardware. Negli ultimi tempi si dice che lo smartphone sia diventata la o una delle nuove piattaforme del videogioco, e però noi siamo abituati a sentir parlare oppure a utilizzare le piattaforme, le console Xbox, PlayStation, Nintendo. Ecco, da questo punto di vista, qual è il ruolo di smartphone e tablet? Ti rispondo in tre modi diversi. Il primo è che è un ruolo crescente e che nel futuro prenderà sempre più piede, lo dicono già le statistiche. Un dato significativo: i bambini sotto i 5 anni utilizzano l'iPad e piattaforme portatili come iPad, appunto, per giocare sempre di più, perché appunto sono intuitive, perché sono estremamente comprensibili per i bambini così piccoli, e quindi si riveleranno di sicuro una delle piattaforme del futuro. Il gaming su PC sta tornando alla grandissima, ma un altro aspetto, e alla Games Week ce ne sono presentati in anteprima, sono i visori di realtà virtuale. La realtà virtuale sta arrivando, vale a dire mettersi degli occhiali, chiamiamoli così, delle maschere da sub, e entrare come nei film di fantascienza degli anni 90 in un altro mondo davvero. Cioè ti si forma davanti un ambiente che non è quello che ti circonda nella realtà, ma è quello che tu vivi sul serio nella simulazione. Piccolo dettaglio, e torno a parlare del papà di Pac-Man: ieri mi ha detto che secondo lui il futuro è addirittura ingeribile, giustamente il papà di Pac-Man, cioè nel futuro l'intrattenimento sarà incorporato nel giocatore. Beh, non so se mi affascina o mi atterrisce, devo ancora deciderlo, non lo so. Sì, questo è un, diciamo, è un punto, rimane un punto interrogativo, però hai fatto bene a citare la realtà virtuale, perché questo è un tema di cui si parla da anni, anni, anni, anni. Probabilmente il 2016 sarà l'anno in cui cominceremo a vedere qualcosa di molto interessante, perché usciranno due o tre prodotti, dall'Oculus fino ad un altro prodotto di Sony, che dovrebbero essere, o meglio sono, perché l'abbiamo già visto, dobbiamo essere sicuri che escano, perché sono già due o tre anni che ci dicono che escono questi videogiochi, queste console, che di fatto sono parte di una console, perché sono dei visori hardware. Un'altra domanda sul software. Tornando ai grandi titoli, oggi quali sono i titoli più famosi, più anche più complicati? Perché io vedo che questi videogiochi richiedono un'immersione anche in termini di tempo, bisogna dedicarci tempo per riuscire a comprendere un po' il mondo all'interno del quale ti devi muovere. Assolutamente vero. Ti dico che alla Games Week c'erano 150 giochi, di cui almeno 50 anteprime, questo per dare idea anche di quanto sia prolifico il mercato e il pubblico, quanto sia esteso il pubblico dei videogiochi. Diciamo che tra i più famosi in Italia non si può non menzionare FIFA o Call of Duty, che a breve, FIFA è già uscito, Call of Duty uscirà il 6 di novembre. Io suggerisco invece di aspettare un pochino, perché sono davvero un nerd anche se cresciutello. Star Wars Battlefront uscirà il 16 di novembre, in attesa del film nuovo di Guerra Stellari, che poi troverà un suo come dire, una sua declinazione videoludica in Disney Infinity Star Wars, che è, come dire, anche in questo caso un po' una prospettiva, un orizzonte nuovo, vale a dire utilizzo delle miniature plastificate, come dire, l'evoluzione delle nostre figurine, delle figu degli anni 80, invece delle figurine sono miniature, si appoggiano su un piedistallo, su una piattaforma che le riconosce e le riproduce all'interno del mondo digitale. E poi ci sono Tom Clancy's The Division, ci sono tante cose viste alla Games Week. Non ultima, e qui credo di rispondere rispetto alla questione della complessità del tempo da dedicare, Gigantic, che è il primo MOBA, si dice, cioè un'arena multiplayer persistente, laddove appunto si crescono i nuovi atleti digitali, uscirà nei primi mesi dell'anno prossimo. E qui bisogna dedicarci sicuramente tempo. Gli italiani sono bravi a sviluppare software, perché se guardiamo il mondo del cinema, nel cinema siamo abbastanza bravi, però non abbiamo un'industria come quella hollywoodiana. Nel videogioco come funziona? Nel videogioco purtroppo avevi già identificato un problema, do solo un dato: l'Italia consuma videogiochi per circa 1 miliardo di euro l'anno, variamo tra i 900 milioni e il miliardo di euro, purtroppo ne produce per non più di 20 milioni l'anno. C'è da dire che però il dato è in crescita, e questo è stato confermato anche l'IGDS, che è appunto l'Italian Game Developer Summit, che c'è stato prima della Games Week, laddove sono visti e si potranno vedere anche all'interno della fiera, consiglio a tutti di passare, 22 giochi italiani molto molto belli, che vanno appunto da applicazioni mediche, mi viene in mente Relieve, che è un'attrezzatura addirittura attraverso Kinect per imparare a fare dei massaggi cardiaci, allo stupendo Iron Wings, che consiglio, che è lo sbarco in Sicilia, la seconda guerra mondiale, rifatto in un videogioco. In più c'è un gioco eccezionale, vi consiglio di andare a giocarlo, che simula la caccia a Moby Dick, ed è veramente delizioso. Beh, incredibile, speriamo che Moby Dick si salvi. Nel senso, cioè, capisco che il gioco sia che la devi cacciare, ma mi dispiacerebbe un po'. Secondo me però su con Enrico parlando di hai fatto centro col primo, visto che lui ha una certa attesa per un certo film che sta per arrivare al cinema. Potrebbe essere un'idea. Lì, secondo me lì ti sei abbastanza emozionato, sì, Enrico, pensato a giocare. Sì, questo potrebbe essere effettivamente un'idea. Emilio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e buon sabato del villaggio. Grazie a Emilio Cozzi, che io ho anche trovato poco fa su Twitter. Il suo account è @addio e grazie per. Mi è piaciuto molto questo account. Originale. Enrico invece... Ricordo che, appunto, l'ha già detto Emilio, ma lo ricordiamo di nuovo, domani esce su Nova, sul Sole 24 Ore, l'intervista all'inventore. Lui ci ha dato una piccola anticipazione, ma il resto la troviamo domani sul quotidiano. E questo mi incuriosisce molto, però abbiamo un'altra cosa da aspettare, un piccolo attimo di pazienza, le informazioni per chi sta viaggiando e poi c'è l'app della settimana di Enrico Pagliarini tra pochissimo. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta il sabato del villaggio. Leggenda di Zelda, un altro videogioco del passato che ci ha tenuto molta compagnia, che ci ha appassionato molto, per concludere questo tema legato ai videogiochi. Ma davvero il traffico per andare alla Games Week a Milano è notevole. Intanto invece nelle informazioni del nostro traffico abbiamo sentito parlare del concerto di Piazza Duomo, dell'MTV Music Week, ne abbiamo parlato sabato scorso al Sabato del Villaggio, ma adesso davvero è il momento dell'app della settimana, ancora con Enrico Pagliarini. Enrico, cosa ci offri questa settimana? Cosa ci consigli di scaricare? Dunque, l'app della settimana l'ho scoperta a Smau, al quale abbiamo partecipato come Radio 24 proprio in questi ultimi giorni. Partiamo dal codice a barre, che tutti conoscono. Il codice a barre fino a poco tempo fa era una cosa che era ad uso della cassa del supermercato, del mondo dell'industria. I consumatori ci facevano ben poco col codice a barre. Da qualche tempo sono uscite alcune applicazioni che, fotografando con lo smartphone il codice a barre, permettono di fare una serie di cose. Abbiamo parlato nella scorsa stagione, ma lo vorrei ricordare perché è molto bella, Edo App, che serve per capire quali sono gli ingredienti, se sono salubri oppure no. Allora, sempre basandosi su questo concetto, cioè io inquadro il codice a barre di un prodotto e l'applicazione mi dice alcune cose di questo prodotto, c'è un'applicazione che si chiama Junker, con la I lunga Junker con la K, Junker, che serve, inquadrando il codice barre, a imparare dove dobbiamo buttare nella raccolta differenziata quel prodotto. Eventualmente l'applicazione ci dice anche se dobbiamo rompere la confezione, perché magari c'è una parte in plastica e una parte di cartone, quindi dobbiamo dividere a nostra volta quel prodotto proprio rompendo la confezione. È molto utile perché, beh, un po' per senso civico, perché uno deve diventare un bravo cittadino, ma anche per evitare di prendere multe. In molte città, adesso io parlo di Milano, non so qual è la situazione in altre città, se uno sbaglia e continua a sbagliare all'interno del condominio e mette la plastica al posto del cartone o fa un errore, il condominio becca una multa. Ecco, allora, per evitare di prendere multe può anche essere utile essere diligenti, disciplinati e capire dove uno deve buttare le cose. Non sempre facile, anche perché le cose cambiano da regione a regione, comune a comune, insomma, grosso modo. Certo, la plastica va buttata nella plastica, ma ci sono alcune cose che in alcune regioni vanno nel sacco giallo, altre regioni in un altro tipo di sacco. Quindi l'applicazione è sicuramente molto utile. Junker, è gratuita. Mi piace molto questa idea, anche perché spesso vengono i dubbi. Enrico, l'ultimo consiglio è quello di 2024, quando possiamo riascoltare la puntata che è già andata in onda e quando va in onda di nuovo. Dunque, un pezzettino lo ascoltate domani alle 13.30, ma consiglio sempre di scaricare il podcast, anzi di abbonarsi al podcast. Abbiamo parlato di Netflix, raccontando un sacco di cose di carattere tecnico, ci siamo proprio, non ci siamo occupati di contenuti, di film, di titoli. Tra un po' ne parleremo a RadioTube, faccio anche un'anticipazione di quello che accadrà dopo. Quindi invece bene, dal punto di vista tecnologico per 2024. Poi abbiamo parlato invece di una bella idea per il commercio elettronico, per risolvere i problemi dell'ultimo miglio, cioè quando mi arriva la merce, e questo è uno dei grandi problemi, c'è una soluzione software tecnologicamente molto avanzata per risolvere questo problema. Fantastico, Enrico, ascolta adesso quello di cui stiamo per parlare, perché stiamo per parlare di cinema, visto che tu sei molto appassionato. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao Enrico. Ciao, ciao, ciao. This is like 3D, man. It's very fresh out here. And at one particular year, we never got out at all. So movies opened up another world. Un breve estratto di The Wolfpack, un film che il nostro Franco D'Assisi ha definito The Revelation. Assolutamente. Ciao, ciao, ciao Marta, allora, ciao a tutti. Questa settimana chi può e chi vuole andare al cinema vada a vedere The Wolfpack. Assolutamente, a questo punto. Inseguitelo, cercatelo, chiedetelo al vostro edicolante, no, al vostro cinema di fiducia. Però The Wolfpack è un film totalmente imperdibile, premio della giuria al Sundance Film Festival più recente, film che ha aperto Alice nella città, la sezione sui giovani della Festa del Cinema di Roma. È la storia di sette fratelli, sono rimasti chiusi nel loro appartamento del Lower East Side di New York praticamente sempre. Cioè il padre voleva proteggerli dal mondo e dice: le chiavi le tengo io, uscite quando dico io. Sono cresciuti però in questi sette anni uscendo, ma proprio per brevissimi momenti, un massimo di 9 volte in un anno, e in un anno anche mai. Ed è una storia incredibile di questi sette fratelli che come vivono? Vivono guardando film, spaccandosi proprio di film VHS e DVD e reinterpretando, trascrivendo le storie di questi film che sanno a memoria, e anche proprio rimettendoli in scena con abiti di risulta, con arredamenti di fortuna. Tutto questo Wolfpack, questo branco di lupi, si sfalda e prende coscienza, come si diceva una volta, il giorno in cui il più grande mette una maschera ed esce. Passiamo a un altro titolo anglofono. Quest'anno non vengono tradotti i titoli? No, ormai non vengono tradotti più. Ma finalmente, devo dire, perché abbiamo tradotto talmente male dei titoli del passato che va bene così. Dark Places. Dark Places. Qui siamo in atmosfera thriller puro proprio, no? Di quello da far sobbalzare sulla sedia, con la storia di una bambina unica scampata al massacro di una famiglia negli anni 80. Nella provincia americana. La cosa era finita con lei che si salva e con il fratello che era stato incriminato per questo orrendo e molteplice omicidio. 25 anni dopo, la ragazza è diventata Charlize Theron, suo fratello giace in carcere da quel giorno, ma un clan di pazzi che vogliono riaprire i cold case, sono quei clan che dicono no, perché non hanno niente a che fare, sono persone normali che si trovano la sera e anziché giocare a briscola, cosa fanno? Riaprono i cold case. Dicevo, thriller classico, bravissima Charlize Theron, non altrettanto il regista Gilles Pachebrenner. C'è un po' alla fine la sensazione che in mano un regista piuttosto questo film avrebbe decollato meglio, invece così in certi momenti gira un po' vuoto, però tutto sommato chi ama il genere thriller lo può andare a vedere. Abbiamo sistemato gli amanti del thriller, invece ci sono tanti amanti del cinema italiano. Cosa li mandiamo a vedere questo fine settimana? Ma guarda, per chi è un po' romanticone, così che gli piace commuoversi per le grandi storie d'amore, c'è Io che amo solo te, tutto musica, mare, Puglia, Scamarcio. Certo, ormai Chiatti, Puglia, ormai tutti i film tutti, italiani sono ambientati in Puglia. Recentemente ho visto un film che diceva ambientato a Torino ma girato a Barletta. francamente, la Puglia Film Commission lavora molto bene. No, però io invece il film che voglio consigliare, per la sua originalità ancora una volta, magari non compiutezza ma originalità sì, è Viva la sposa di Ascanio Celestini, che tra l'altro avremo ospite fra poco alla Rosa Purpurea, perché molto pasolinianamente ci racconta una Roma marginale, di periferia, di prati, di case abbandonate, e racconta tante storie. storie, tanti personaggi marginali che stridono con questo titolo Viva la sposa, con la gioia che dovrebbe esprimere, ma che raccontano il dolore invece di una umanità semi sconosciuta e suburbana. Un film interessante con Ascanio Celestini che comunque ha sempre, da sempre, un tocco di originalità. E quindi con Ascanio e Celestini, ma ovviamente anche con te, l'appuntamento alla Rosa Purpurea dopo il giornale radio delle 18 e con noi il prossimo sabato. Ciao Franco. Ci risentiamo, anzi sabato prossimo mi sa che ci sentiamo un po' di più, perché siccome c'è Expo che chiude e allora il pomeriggio di Radio 24 sarà dedicato a questo tema, staremo insieme un po' di più. Fantastico, al prossimo sabato. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, pronti per la seconda ora del sabato del villaggio. Nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Allora, vi devo confessare un problema tecnico, da un'ora che sto soffrendo perché abbiamo un piccolo problema tecnico con gli SMS. Non riesco a leggere i vostri SMS, quindi se non sto leggendo gli SMS in diretta vi assicuro non è colpa mia. Però se aveste davanti uno smartphone e un account di Twitter potete comunque scrivermi con Twitter @MartaCagnola, il mio account. Sono un po' sofferente. Cosa succederà nella seconda ora del sabato del villaggio? Si torna a parlare di Barbie con una mostra davvero da non perdere. I libri del momento con i consigli di Alessandra Tedesco, consumi e tendenze tra il caffè, ma non solo, sospeso e tutte le app per scegliere i giusti ristoranti. Ma prima parliamo di teatro. Se uno vede te e poi dopo vede me, non trova differenza, ma la differenza c'è. Se uno vede te e poi dopo vede me, non trova differenza, ma la differenza c'è. L'uguaglianza è apparenza, la bellezza è differenza, fratellanza. Io sono una grande fan della banda Osiris, anche perché si autodefiniscono la boy band più stagionata d'Italia, e trovo questa definizione straordinaria. La banda Osiris è stata uno dei protagonisti della prima giornata, se non sbaglio, di questo festival che ha la 10ª edizione. Mi fa molto piacere parlarne perché si parla sempre troppo, noi parliamo sempre troppo poco di teatro, perché è difficile trovare un punto comune in tante iniziative, in tanti luoghi d'Italia, è difficile seguire tutte le tournée, però c'è una cosa alla quale io tengo personalmente tantissimo, che è il teatro per ragazzi, i ragazzi che incontrano il teatro. E in questi giorni a Mantova c'è la 10ª edizione del festival Segni d'Infanzia e Oltre, Festival Internazionale d'Arte e Teatro per le Nuove Generazioni. Inizia in realtà il 28 ottobre, ho fatto un errore, non sono già stati protagonisti perché saranno presto protagonisti, il 28 ottobre inizia questo Segni d'Infanzia, io ho un problema con le date, mi sbaglio sempre, ma insomma no, oggi è ancora il 24, 28 ottobre, 1 novembre 2015, Mantova. Ci colleghiamo subito con il direttore artistico o la direttrice artistica, come preferite, di Segni d'Infanzia e Oltre, Cristina Cazzola. Buongiorno Cristina. Buongiorno a voi. Eccoci qua, dopo questa mia incompetenza col calendario, perché evidentemente... Non preoccuparti, perché in verità per noi è già cominciato, nel senso che stiamo già ballando, anche lo so, non sono ancora cominciati. Lo so, io da bambina dovevano avvicinarmi maggiormente al concetto di calendario, come voi invece avvicinate i ragazzi al teatro, che è una cosa sacrosanta, bisogna... allora, 10ª edizione, quindi... Io Io immagino che tu l'abbia preso in corsa, perché sei troppo giovane per aver iniziato dall'inizio. No, in verità l'ho creato io. No, io sto no, sai perché? Perché abbiamo la stessa età, Cristina. Non è possibile, sei una bambina. Non è solo una bambina, ma siamo ecco. Due bambine, però si fanno tante cose belle anche da bambini, giusto? Cristina, anzi. Allora, è un'iniziativa molto bella, perché cosa succede in questi giorni? Cosa succederà dal 28 a Mantova? Allora, io ho guardato io davanti il programma, ragazzi, un sacco di cose. Sì, tante cose, infatti, allora, innanzitutto abbiamo un po' esagerato perché era la decima edizione, quindi ci piaceva, fare un po' di più. Infatti quest'anno il festival si chiama Segni d'infanzia e oltre. Proprio perché cominciamo a crescere, a essere diventati grandi. Il festival ha iniziato 18 anni fa con delle proposte per i piccolissimi, quindi segni d'infanzia, ok? E quando dico piccolissimi, 18 mesi in su, ok? 18 mesi già sì. A contatto con l'arte? Esattamente. C'è chi dice che le sinapsi non sono ancora tutte costruite e che si costruiscono stimolandole, e non ci crediamo, quindi li stimoliamo questi bambini. Beh, lo spettacolo è anche vedere gli spettatori, però, a quel punto, perché quelli di 18 mesi sono uno spettacolo anche loro, Sì, è vero. E la cosa più bella è che quelli di 18 mesi sono a vedere gli spettacoli con i loro genitori, e quella che è la grande sfida è trovare degli spettacoli o dei laboratori, dei percorsi d'arte, perché poi questi sono i nostri contenuti, che soddisfino altrettanto i bambini e i genitori. Quindi è bellissima la triangolazione che si crea nello sguardo del genitore che guarda il bambino, ma che in verità si diverte anche lui. Questo non è facile, perché è un confine molto sottile che solo alcuni artisti sanno percorrere, appunto restando nell'arte e non cadendo in quello che può essere l'intrattenimento un po' più facile. Certo. A cui niente togliamo, ma è una cosa che diciamo lasciamo fare ad altri. A noi piace proprio cercare dei contenuti che siano su quel confine, un po' che siano un po' una ricerca, hanno queste caratteristiche, la ricerca e l'incrocio, l'intersezione delle arti, perché poi sono spesso gli artisti che lavorano per le nuove generazioni, come mi piace dire, sono artisti che amano sperimentare. Partite da questi spettatori di 18 mesi minuscoli, mm-hmm, fino ad arrivare ai 13-14? In verità 18. Ah, 18! Sì, a me piace dire 18 mesi, 18 anni. Bello, giusto. Anche perché poi non è che quelli dopo i 18 non possono venire, però hanno già imparato da soli ad andare a teatro a quel punto. Esattamente, brava. Bello. La sfida è proprio quella, quindi Segni d'infanzia è oltre quest'anno, è perché i primi spettatori avevano magari 18 mesi, quindi adesso cominciano ad avere oltre i 10 anni, e poi quelli che ne avevano 3 ne hanno un 13 e così via dicendo. Cristina, come si avvicinano? La vostra iniziativa è straordinaria, io immagino che ci siano molte mamme e molti papà con le antennine accese, e magari qualcuno vuole arrivare già a Mantova dal 28 ottobre al 1 novembre per assistere a questi spettacoli. Ma secondo te come si avvicinano i ragazzi? Se tu dovessi dare un consiglio ai genitori che ci stanno ascoltando, cosa portarli a vedere, cosa non fare, perché si possono fare... Come anche si avvicinano? Danni, si possono fare anche danni, sì, è vero. Allora, la parola chiave secondo me è che non esiste un bello o un brutto spettacolo, ma o un bello e brutto appunto evento artistico. La cosa importante è andare sempre insieme e farti delle domande, perché anche un brutto spettacolo può essere una bellissima occasione di scoprire appunto cosa mi piace, cosa non mi piace, cosa funziona, cosa non funziona. E quindi quella è un po' la parola chiave, no? Andarci insieme e con una domanda. Questa è l'avventura secondo me da fare. E poi bisogna essere un po' curiosi, anche fare appunto degli esperimenti. Quando sento dei genitori che mi dicono: ah no, ma questo secondo me per mio figlio non va bene, ecco, lì un po' mi allarmo, no? Perché come facciamo a sapere cosa va bene per i nostri figli? Sono esseri umani che sono diversi da noi. E le scuole? Le scuole, a cosa si può dire ai professori? Ai professori è un po' la stessa cosa. Ora, il professore si trova sempre in una posizione molto difficile, perché ha la responsabilità di portare anche un po' per altri, no? Certo. Quindi io mi faccio sempre tante domande prima di presentare uno spettacolo, perché quelli per le scuole devono essere ancora più efficaci. E diciamo che una cosa da non fare, secondo me, è non chiedere subito dopo lo spettacolo se è piaciuto lo spettacolo. Ah. Ti sei divertito? Perché io, quando vado a teatro, ma anche al cinema, che è la cosa che tutti hanno più frequentemente in mente, no? Subito dopo, se mi è piaciuto, sono ancora dentro la storia. Sto ancora lì un pochino, come in un sogno da cui mi risveglio bruscamente. Se non mi è piaciuto, magari sono infastidito, non ho voglia di parlarne, e a volte, questo succede spesso con l'arte, quello che mi ha turbato in verità mi lascia un segno più profondo e mi interroga, e quindi forse fa ancora di più il suo lavoro. E quindi diciamo che anche se noi durante il festival o dopo gli spettacoli chiediamo, abbiamo tutto un progetto con dei ragazzi, dei giovani critici che fanno le critiche teatrali, abbiamo quest'anno tra l'altro la radio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Radio Sarai, con i ragazzi che faranno delle interviste, però ecco, io dico sempre attenzione, ci avviciniamo e magari non chiediamo dello spettacolo, magari chiediamo un'immagine che ti ha colpito, ecco, ma proprio ti è piaciuto, lo trovo un po' invadente. Prezioso questo consiglio. Allora io ricordo la 10ª edizione Segni d'infanzia e oltre a Mantova, 28 ottobre, 1 novembre, quindi siete ancora in tempo per organizzare una gitarella a Mantova. Grazie al direttore artistico per essere stato con noi, grazie Cristina Cazzola, a presto. A presto, vi aspettiamo. Grazie Cristina, noi ci ritroviamo tra pochissimo perché abbiamo tutte le indicazioni per chi sta viaggiando. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Il sabato del villaggio. E nel nostro villaggio globale adesso è il momento dei libri. Cierto es que no pido, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí. Con questo Victor Jara andiamo ovviamente in Cile. Perché andiamo in Cile? Lo chiediamo subito ad Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra. Ciao Marta, beh, perché parliamo della signora della letteratura latinoamericana, cilena, anche se lei in realtà è nata in Perù, adesso è diventata statunitense e vive in California, però si sente ancora profondamente cilena. Lei è Isabel Allende e tutti forse ricorderete il suo successo più famoso, La casa degli spiriti, era la metà degli anni Ottanta, insomma è stato un libro che ha avuto un grande successo, c'era stato anche un film. E adesso il libro di cui si sta parlando è il suo ultimo romanzo, pubblicato in Italia da Feltrinelli con la traduzione di Elena Livorani, che si intitola L'amante giapponese. Marta, io ho letto questo libro, ti devo dire, ne sono rimasta proprio appassionata. È molto diverso dai suoi primi libri, non ha quello stile realismo magico, lo stile barocco. Lei si è quasi anglosassonizzata nella lingua, nella scrittura, insomma. E ha una scrittura più pulita, più netta, che io francamente preferisco alla scrittura barocca tipica dei latinoamericani. È un romanzo veramente appassionante, che ambientalmente in una casa di riposo. La protagonista è Alma, una donna di 80-81 anni, e c'è una ragazza che lavora in questo istituto, Irina, viene dalla Moldavia, ha un passato doloroso e diventa la sua assistente personale. Con la complicità del nipote di Alma, loro due riescono a ricostruire la storia di Alma, una storia appassionante della sua infanzia. Lei era un'ebrea polacca mandata negli Stati Uniti dai genitori appunto per salvarla dalla persecuzione nazista. Ma soprattutto riescono a ricostruire la storia di questo grande amore e passione che ha legato Alma per anni al suo amante giapponese. ed è una storia bella, non è una storia di quelle, sai, io detesto un po' le storie stupidamente romantiche, questa è una storia bella di struttura bello, forte. Bello, bello, mi stai facendo voglia di leggerlo. E poi sai, si apre anche un focus, lo fa Isabella Allende, molti suoi romanzi lo fa anche in questo, su un periodo storico particolare, cioè dopo l'attacco a Pearl Harbor, quando negli Stati Uniti vennero creati dei veri e propri campi di concentramento dei giapponesi. Infatti l'amichetto di Alma, erano bambini quando si conoscono, poi diventano da grandi amanti, l'amante giapponese viene rinchiuso in questo campo di concentramento indipendentemente da quello che avevano fatto, insomma, cioè se eri giapponese venivi rinchiuso nei campi, e stiamo parlando campi di concentramento negli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. È una cosa storica che pochi conoscono, e Isabella Allende riesce a ricostruire questo sfondo storico anche in modo perfetto, secondo me. Ma perché, insomma, inventarsi una storia d'amore con una protagonista che ha 81 anni, che insomma anche esteticamente uno non è che la immagina particolarmente appassionante? Eppure c'è un perché, sentite che cosa ci ha risposto Isabella Allende. Perché in questo momento in mia vita io tengo più di 70 anni. Perché in questo momento della mia vita, in cui io ho già più di 70 anni, effettivamente questi sono i temi che mi sono più vicini. Amore, perdita, romantico, amore romantico, vecchiaia, l'avvicinarsi della morte, la memoria. E quindi chiaramente questa è una storia che per me è particolarmente importante, proprio perché la protagonista ha 80 anni. Tiene 80 anni. Voy a hacerme un cigarrito. Alessandra, chi consigliamo questo amante giapponese di Isabella Allende? Guarda, l'amante giapponese io lo consiglio a uomini e donne che pensano che l'amore, non necessariamente quello ufficiale, marito e moglie, ma insomma può essere anche quello di un amante, può in alcuni casi durare tutta la vita. E lo consiglio anche agli appassionati di storia, perché questo focus comunque su quel periodo della storia che ci siamo un po' dimenticati vale veramente la pena. Bello, sono già appassionata. Alessandra, il libro di cui si parla questa settimana insieme a quello di Isabella Allende? Cara mia, il re dell'avventura, il re mondiale dell'avventura, Wilbur Smith, con il suo nuovo romanzo, ormai ne sforna uno all'anno, si intitola Il leone d'oro, pubblicato da Longanesi. È già un libro che sta avendo un grande successo in Italia, ha venduto qualcosa fra le 22 e i 24 milioni di copie, adesso non ricordo esattamente, quindi possiamo chiamarlo decisamente forse l'imperatore dell'avventura, più del re dell'avventura. Tra l'altro questo è il primo libro in cui ufficialmente Wilbur Smith usa un coautore, quindi è cofirmato. Lui aveva detto qualche anno fa che si sarebbe avvalso di ghostwriter, lui avrebbe così dettato la trama e poi i ghostwriter avrebbero scritto, perché ha così tante storie da raccontare, ha ormai una certa età e dice: io ho voglia di raccontarlo, voglia di pubblicare un libro ogni sei mesi, ho tante cose da raccontare, qualcuno deve aiutarmi. Insomma, questo è il primo libro in cui appare ufficialmente la seconda firma, ed è uno dei libri che fa parte della saga dei Courtney Navigatori, perché Wilbur Smith fa un sacco di saghe, quella del periodo egizio, quella dei Ballantyne, quella della famiglia Courtney. In questo caso siamo nell'Africa orientale, metà del 600, il protagonista è uno dei membri della famiglia Courtney, Al Courtney, che è sposato con una nobile guerriera etiope. Al è convinto di aver sconfitto il suo acerrimo nemico, la Voltoio, ma questi già dalle prime pagine si capisce che, come dire, rinasce dalle sue ceneri come la fenice. Indovina che obiettivo si pone? È quello naturalmente di uccidere Al e la moglie, insomma. E quindi è un'altra avventura di Wilbur Smith, che sentiremo presto tra l'altro anche nel Cacciatore di Libri, perché l'abbiamo quindi incontrato a Milano. Quindi in questi giorni ha incontrato Isabella Allende e Wilbur Smith. E mica solo loro. Vabbè, poi ti chiederò qualcosa dei tuoi incontri di questa settimana. A chi consigliamo? Beh, ovviamente agli appassionati di Wilbur Smith. Agli appassionati di Wilbur Smith, a tutti quelli che amano i romanzi di avventura per, come dire, evadere un po' dalla routine, perché sono romanzi che parlano proprio di tempi, posti lontani, e quindi ci fanno preoccupare e sognare nello stesso tempo. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo, ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. Lacrimucce mie di Alessandra Tedesco, di Roberta in regia. No, questa è istigazione al suicidio più che altro, questa canzone di una tristezza, no, di una è una malinconia. Delle canzoni più belle della storia della musica leggera italiana. Io chiamo solo te, titolo che in questi giorni torna perché è uscito il film, e questo tu lo sai bene, Marta, di Io chiamo solo te. Ma Io chiamo solo te è stato prima un libro di Luca Bianchini, pubblicato da Mondadori alcuni anni fa, un libro veramente spassoso, divertente, al di là appunto della canzone che è drammatica. Però Bianchini, secondo me, ha la capacità di raccontare delle belle storie con ironia, a volte anche una punta di sarcasmo, però non è mai banale. Ci sono parti comiche, ma veramente non è mai banale. Allora, è ambientato a Polignano a Mare, provincia di Bari. Questo è un caso che sia la provincia di Bari, non è colpa mia. Abbiamo appena parlato con Franco D'Assisti del film, abbiamo detto ultimamente tutti i film in Puglia. Che ci possiamo fare? Siamo così, siamo forti. Allora, c'è un matrimonio che si deve celebrare, quello fra Chiara e Damiano. Sono due giovani. Lei è preoccupatissima tanto dal maestrale, questo vento di chissà se ci sarà il maestrale. E soprattutto si vede tutta l'industria del matrimonio in Puglia. Si fanno i prefilmini, cioè tu il giorno prima ti vesti da sposa, vai sugli scogli di Polignano a Mare e giri il film come se fosse il giorno delle tue nozze, meraviglia. Capito? Con una regia, una cosa meravigliosa. Però la storia si complica perché la mamma di lei, di Chiara, è stata innamorata del papà di lui, Don Mimì, che nel film è interpretato da Michele Placido, eccolo qua. Ed è insomma il signorotto di Polignano a Mare. Ebbene, succedono delle belle, come sempre c'è un personaggio gay, come in tutti i libri di Bianchini, in questo caso il fratello di Damiano, che si presenta a questa festa di matrimonio con una finta fidanzata che è lesbica, e per non far notare la sua mascolinità si veste così femminile, così femminile, così femminile, che pensano che sia, come dire, una poco di buono. No! Quindi insomma ci sono tutta una serie di scene molto, molto esilaranti nel libro che vi consiglio, e la vera protagonista, quindi il cuore di questo libro, è la mamma della sposa, Ninella. Sentite Bianchini. È la vera protagonista poi in realtà di questa storia, una donna di 50 anni che però è un po' fuori dal tempo. È una tipica donna del sud che ha una grande forza e un grande carattere, e soprattutto ha una dote che noi non abbiamo più, è quella di saper aspettare. Lei è lì, e questo è tipico, no? Al sud. Io sono poi per metà meridionale, quindi posso, anche se non pugliese, per cui anche però pensa, puoi testimoniare questa dote delle, sì, donne del sud. Si sa aspettare, non si dimentica, e le parole dette hanno un valore, e queste sono tutte caratteristiche che Ninella ha, che ha avuto un grande amore nella vita, che è Don Mimì, quest'uomo che non ha potuto sposare perché le famiglie si sono messe di mezzo, e si sposa con un altro uomo, lui si sposa con un'altra donna, i loro figli si innamorano e sono destinati a sposarsi e si sposano, quindi loro in tutti e due, anche se non si parlano, si salutano appena giusto la domenica quando si incrociano, tutti e due sanno che quella è un po' la loro rivincita, no? Che del destino. A chi consigliamo Io chiamo solo te di Luca Bianchini? Vabbè, a parte tutti i pugliesi che rideranno come dei matti, naturalmente, perché conoscono i retroscena dei matrimoni che iniziano alle 11 del mattino e finiscono a 1 di notte, a tutti quelli che vogliono sorridere, ma in maniera non banale, perché vi ripeto, con Luca Bianchini si sorride, ma c'è sempre, come dire, un sottotesto intelligente. Però non è l'ultimo romanzo di Luca Bianchini. No, Luca Bianchini nel frattempo ha pubblicato Dimmi che credi al destino, che è la storia in parte vera di una libra italiana a Londra. Anche in questo caso c'è un po' di romanticismo, un po' di tenerezza, ma non è mai sdolcinato. Molto bene, Alessandra, io so che tu stai per scappare perché hai un sacco di impegni questo pomeriggio. Guarda un po'. Perché Milano in questi giorni è tutta piena di libri. È invasa da scrittori, ci sono più di 820 fino a domani sera, Book City. Allora vi consiglio alcuni, secondo me, ancora degli incontri imperdibili. Erika Young, te la ricordi quella di Paura di Volare? Scrittrice americana, fa un incontro che si intitola Dopo paura di volare, donna felicemente sposata cerca uomo felicemente sposato. Da consigliare a o gli scambisti o chi ama le relazioni extraconiugali. Sono molto curiosa di sentire cosa ha da dire Erika Young su questo tema. In effetti, ma Poi, secondo me non si può perdere la chiusura con Claudio Magris, che tra l'altro ha appena pubblicato il suo ultimo libro, Non luogo a procedere, pubblicato da Garzanti. Protagonista di questo libro è un uomo che costruisce uno strano museo di guerra, in cui attraverso alcuni oggetti si raccontano tutti gli orrori di cui è stata capace l'umanità. E questo lo consiglio a chi ama la storia e a chi ha voglia di recuperare la memoria collettiva. Certo, so che c'è anche Francesco Piccolo, sì, che Francesco a me Piccolo, piace particolarmente. Sì, è stato anche premio Strega l'anno scorso, momenti di trascurabile felicità, infelicità e così via. Lui è una grande ironia, farà un reading intitolato Momenti di trascurabile infelicità, consigliato naturalmente a chi ha voglia di sorridere. E infine un consiglio per chi ha un cane, perché lo diremo poi alla nostra Rosita Celentano. Assolutamente, sono sicura che ci andrà anche lei, perché io sono Woody e sono solo un cane, tu che scusai? Questo è il titolo di un incontro con Federico Baccomo, che ha appena pubblicato questo libro delizioso che si chiama Woody. È veramente il mondo visto dalla parte di un cane, succedono una serie di avventure, una storia comica ma nello stesso tempo anche drammatica e commovente. Baccomo era quello che aveva scritto Studio Illegale, La gente che sta bene, Pip Show, e alla presentazione ci sarà anche Claudio Bisio, quindi insomma ci sarà da ridere, ma forse anche una lacrimuccia per i padroni di cani verrà fuori. Ah, senti, l'ultimo consiglio, come sempre, a Sabato del Villaggio è quello del cacciatore di libri. Cacciatore di libri ogni sabato alle 6:30 del mattino, il sabato sera alle 22, stasera avrete l'intervista integrale a Isabella Allende, che vi consiglio di non perdere, poi c'è naturalmente anche in podcast. E chiocciola Ale Teddina per seguirti su Twitter, al prossimo sabato Alessandra. Baci a tutti. Il Sabato del Villaggio. Ci siamo con l'ultima mezz'ora del Sabato del Villaggio, prima poi di dare lo spazio all'ora di RadioTube, il sabato pomeriggio di Radio 24 e il Sabato del Villaggio, lo sapete, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, certo in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri, li abbiamo appena sentiti, e consumi. Sospesa, mi vedrai. Era questa canzone di Malika Ayane con Pacifico, Sospesa, perché di qualcosa di sospeso parliamo con Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, un saluto a tutti. Sì, parliamo proprio del sospeso, l'abitudine tutta napoletana di lasciare un caffè pagato al bar per chiunque lo voglia prendere, la conosci? Me l'hanno insegnata, tu paghi il tuo caffè, ne paghi uno in più, lo lasci in sospeso perché se qualcuno che non se lo può permettere entra nel bar, chiede, c'è un caffè pagato, sì. Esatto, bello. Un caffè offerto all'umanità, lo definisce Luciano De Crescenzo, insomma, quando si parla di giusto tradizione napoletana, la trovo proprio una definizione fantastica. Perché ne parliamo? Perché sta diventando una pratica di consumo ovviamente, ma di solidarietà anche, che si sta diffondendo in tutto il mondo, Marta, cioè sta superando i confini geografici, quindi da Napoli al mondo, ma anche quelli di settore, perché non più solo di caffè si parla, ma di pizza, di libri, di pane, di visite mediche addirittura. Quindi insomma veramente un gesto di cortesia civica veramente bello che mi piace raccontare. Partiamo dalla notizia che ha fatto appunto, ha avuto molta eco negli Stati Uniti, Rosa's Fresh Pizza, questa piccola pizzeria di Filadelfia, che ha iniziato a offrire appunto le pizze agli homeless con la pratica del sospeso. In quel caso veniva appeso dal cliente solidale un post-it colorato alla parete della pizzeria, e veramente in pochi mesi queste pareti si sono letteralmente riempite, si parla di migliaia di pezzi di pizza offerti, c'è stato molto chiacchiericcio sui social, insomma basta digitare Rosa's Fresh Pizza e dal web emergono tutte queste immagini, queste pareti colorate piene di post-it. E poi vorrei raccontarti di un'iniziativa invece italiana, si parla sempre di un altro prodotto, non del caffè, del gelato. Sospeso anche il gelato? gelato? Esattamente, quindi molto bello, molte le gelaterie che hanno aderito, che stanno tuttora aderendo. A lanciare l'iniziativa è stata l'associazione di Roma Salva Mamme, ha già offerto, pensa Marta, più di 20.000 gelati in tutta Italia. Tantissimi. Ce la siamo fatta raccontare dalla presidente Maria Grazia Passeri. L'adesione di cui noi siamo a conoscenza formale conta 170 gelaterie in tutta Italia, ma di fatto sono molto di più, perché poi persone, telefonate, veniamo a sapere anche di luoghi che proprio non immaginiamo che stanno funzionando a pieno ritmo. La bellezza è la rete, è l'idea. Volevamo una libertà totale di adesione e di partecipazione. Chi volesse partecipare che cosa deve fare, sia come gelateria che come consumatore? Allora, sul sito di Salva Mamme abbiamo tutti gli estremi, c'è anche una locandina da esporre e il consumatore può andare presso la gelateria e dire ok, c'è un gelato sospeso per me, in modo assolutamente paritario, semplice, informale. Anche le associazioni, perché per esempio abbiamo delle gelaterie che hanno avuto 500 gelati, quindi magari un'associazione, una parrocchia, un centro anziani possono chiedere una partecipazione magari con un chilo o due di gelato. Anche questo è simpatico. Che cosa racconta dal vostro punto di vista questa pratica? La società vede comunque un italiano generoso, aperto. Chiaramente che si è bruciato in 100 occasioni e che ha bisogno di ritrovare la fiducia in cose semplici che può controllare. Questa era una cosa iper semplice. Da una parte dice che noi comunque oltre 20.000 gelati sono stati dati, che non è così poco sostanzialmente. Allora, Salva Mamme dà cibo tutto l'anno a migliaia di persone, vestiti, cure, ma che cos'è il gelato? È quel momento in più, quel momento di affetto, di solidarietà, di condivisione tra famiglie, come dire, la ciliegina su una torta che ci deve essere. Quindi cosa voglio raccontare? Voglio raccontare che tra le persone che già se la stanno cavando economicamente, lo vedo anch'io che i miei disoccupati stanno incominciando a riposizionarsi, e le famiglie che ancora sono ai margini, ci deve essere un'alleanza fatta di piccole e grandi cose. Questo è il senso del gelato sospeso. Bello, mi piace questo gelato sospeso, queste Salva Mamme, è una bella iniziativa. Beh, come sempre le mamme insomma hanno grande fantasia, e poi insomma lanciamo la sfida, Marta, il sospeso insomma. Altro sospeso, anche perché adesso per il gelato comincia a fare un po' freschino, esatto. Cominciamo a offrire anche qualcosa di più caldo. Esatto. Mi pare una bella iniziativa da lanciare. Maria Luisa? Benissimo, adesso è il momento delle nostre strategie anticrisi, anche se insomma anche il sospeso si colloca perfettamente in questo spazio. Abbiamo già in collegamento la nostra esperta, fornitrice di grandi consigli, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Cristina, che cosa ci regali questa settimana? Quali sono le tue strategie di questo sabato? Guarda, la strategia in questo caso è: vogliamo andare fuori a cena, quindi stiamo investendo dei soldi che sono preziosi. Allora, nel momento in cui decidiamo di uscire a cena, se abbiamo delle esigenze particolari, è giusto che andiamo a bomba. Ad esempio, mi è mai capitato di chiedervi: ah, oggi avrei tantissima voglia di mangiare, che ne so, i bucatini alla matriciana? Certo. Trovare il ristorante, abbiamo una scelta, quella di cucinarceli, però se non siamo tanto bravi, oppure abbiamo proprio voglia di uscire, dobbiamo trovare il ristorante, quindi dovremmo fare delle ricerche incrociate su Google, eccetera. Invece quattro ragazzi toscani si sono inventati un'app e un sito che si chiama Appetitoso, dove il claim è proprio: cerca il piatto, trova il ristorante. Quindi su Milano, Firenze e Roma in questo momento, ma poi si amplierà, uno può andare e mettere bucatini alla matriciana ed escono tutti i ristoranti recensiti per quel determinato piatto. E c'è di più: vogliamo aiutare i nostri amici a condividere con loro questi bucatini meravigliosi che abbiamo mangiato? Facciamo la foto e pubblichiamo sul sito questi prodotti. Beh, straordinario. Già ho voglia di bucatini alla matriciana. Tra l'altro, ma è l'orario. Salva tempo, perché anziché trovare il ristorante, poi guardare il menù sul sito e decidere, insomma, se è in linea con parti i nostri gusti. Parti già con quello che hai voglia di mangiare. Straordinario. Fantastico. Cristina. Ecco, allora poi ci sono invece, ho voglia di uscire a cena, però sono celiaco e allora lì abbiamo un problema, no? Di solito per trovare i ristoranti giusti. Ma c'è un'app che si chiama glutenfreeroads.com dove si può andare e capire dove ci sono i ristoranti o anche gli alberghi con ristorazione annessa che fanno dei piatti gluten free decenti e non la solita, il solito piatto surgelato che infili poi, che il ristoratore infila nel microonde e ci rifila se siamo celiaci, e quindi anche questo può essere d'aiuto. Siamo vegani e anche lì, cioè, non è che i vegani devono per forza cucinarsi le verdure tutti da soli, c'è tuttovegan.it dove se uno vuole cucinarsi la casa una serie di ricette, ma altrimenti anche una serie di ristoranti e pasticcerie vegane dove non si può sbagliare. Infine aggiungo anche, se invece abbiamo bambini, carrozzini oppure disabili, o siamo disabili o deambuliamo semplicemente con fatica, c'è un'altra app che si chiama Move Around dove si trovano non solo i ristoranti ma anche i musei eccetera, luoghi diciamo di intrattenimento e di cultura, e ci dice se quei luoghi sono accessibili facilmente da chi si muove su ruote e non in macchina. Però una cosina piccolina piccolina, prima parlavate di mamme, c'è questo Matilde Menù che funziona in realtà per pochissime città dell'Emilia, ma mi piace citarla, dove non so se chi ha bambini chiede al suo bambino cosa hai mangiato oggi a scuola, per capire se potrà dare pasta o carne a seconda di quello che ha mangiato a pranzo. Bene, di solito i bambini sono un po' reticenti, almeno i miei lo sono, e quindi con Matilde Menù ha creato un'app dove nelle scuole dove serve, in collaborazione con CAMS, vengono aggiornati e pubblicati tutti i menù delle scuole pubbliche e dei refettori. Così se un genitore vuole sapere cosa ha mangiato il suo bambino, basta che vada alla app e non lo devi interrogare o fargli il terzo grado. E soprattutto un bambino non può più mentirti per non mangiare una cosa che non gli va, non può dire l'ho già mangiata in mensa. Il minestrone, mamma, pranzo a scuola. L'abbiamo già mangiato, non me lo puoi fare stasera. Esattamente. Cristina, grazie per essere stata con noi anche questa settimana. Grazie a Cristina Lazzati. Grazie a voi e buon weekend a tutti. Ciao, a presto. Maria Luisa, l'appuntamento con Essere Avere? Domani alle 22, non mancate. E al prossimo Sabato del Villaggio, grazie. Stufe, caldaie, termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. Questa versione di Barbie Girl che in realtà ho scoperto proprio oggi cercando questa vecchia canzone degli Aqua, perché ho fatto caso che questa canzone ha comunque 18 anni, quindi è una canzone vecchiotta che sembra non lo sia, la canzone degli Aqua in questa versione che io non conoscevo di Scott Bradley's Postmodern Jukebox, ma molto carina. Perché? Perché Barbie Girl? Perché sta per essere inaugurata a Milano e io friggo da tempo, non vedo l'ora, perché io sono una fan di Barbie da sempre. Barbie the Icon sarà una mostra che parte il 28 ottobre e sarà aperta fino al 13 marzo 2016 al MUDEC, al Museo delle Culture di Milano. Il suo vero nome è Barbara Millicent Robert, ma per tutti è solo Barbie. Ma cosa vedremo in questa mostra a lei dedicata? Ci colleghiamo con il curatore di Barbie the Icon, Massimiliano Capella. Buonasera Massimiliano. Buonasera, bentrovati. Io non vedo l'ora, Massimiliano. Guarda, come bambina e ragazzina di ieri, ma un po' anche oggi quando mi trovo davanti a Barbie, non vedo l'ora. Cosa hai pensato per omaggiare questa The Icon, questa icona? Allora, troveremo 438 pezzi che ricostruiscono fondamentalmente la storia di Barbie. dall'origine, dalla sua apparizione il 9 marzo del 1959 nelle vesti di teenage fashion model doll fino ad oggi, quindi in 5 sezioni. Tocchiamo tutti i momenti fondamentali della storia di Barbie e del suo mito, e quindi approfondiamo il rapporto di Barbie con la moda, anche perché Barbie è prima di tutto un'icona di stile, anche perché la sua apparizione nel 1959 è, come ho detto prima, proprio come teenage fashion model, quindi anche la prima professione di Barbie è proprio quella della modella, seguita nel 1960 dalla seconda professione, che è quella di fashion editor, e quindi, come dire, la sua predisposizione allo stile, alla moda è da subito dichiarato. Allora, poi, modella, fashion editor, però io so che avete dedicato una sezione anche alle carriere di Barbie, perché Barbie ha fatto, sì, di tutto. Barbie ha fatto di tutto. Le mie facevano sempre le rock star, le mie erano sempre star della musica. Allora, perché in questo modo sveli la tua età, le rockstar sono praticamente le Barbie più celebri della metà degli anni Ottanta. Verissimo. E quindi praticamente quando qualcuno dichiara la propria passione per un modello piuttosto che un altro modello, dichiara inequivocabilmente la propria età, c'è poco da fare. Bambina della metà degli anni Ottanta. Bambina della metà degli anni Ottanta, si capisce subito. Si okay. capisce, dichiarato, dai. Certamente. Quindi le professioni. Barbie, in oltre 56 anni di vita, ha interpretato 156 carriere, quindi partendo da modella, abbiamo detto fashion editor, ma veramente interpreta tutte le carriere possibili, immaginabili, molto spesso anticipando anche alcuni momenti fondamentali di quella che è l'emancipazione poi femminile a livello proprio professionale. Nel 65, ad esempio, Barbie è già astronauta. Prima ancora dello sbarco sulla Luna, lei già partiva. Ancora esatto, dello sbarco sulla Luna. Oppure, chiaramente medico, pediatra, veramente interpretato ogni tipo di carriera, anche perché il motto di Barbie, ovvero il motto comunque di Ruth Handler, che è la creatrice di Barbie, è sempre stato I can be, quindi io posso essere. E questo è un aspetto estremamente importante da sottolineare, perché fondamentalmente Barbie è sempre stato un grande stimolo per le bambine per poter essere ciò che volevano essere. Potevano realmente interpretare o intraprendere ogni tipo di carriera, perché tutto era possibile. Quindi il messaggio centrale di Barbie, diciamo, per quanto riguarda le proprie fan, era questo, cioè attenzione, perché non dovete essere soltanto madri, spose, casalinghe, ma potete fare tutto quello che volete. Tra le altre cose, Barbie non si è mai sposata. Barbie non sì, ha mai perché avuto figli. Barbie ha sempre avuto un sacco di abiti da sposa, perché ce li avevamo, sì, tutti gli abiti da sposa di Barbie, sì, però Ken è sempre collezione. Sì, però Ken è sempre stato il fidanzato. È sempre stato il fidanzato fino almeno al 2004, poi loro nella storia insomma costruita, loro si lasciano e poi si ritrovano nel 2011 quando Ken si dichiara questa campagna di comunicazione straordinaria, Times Square, New York, dove tutta una serie di immagini luminose così celebreranno il suo amore per Barbie, e lui riconquisterà proprio nel 2011 Barbie. Però voi avete dedicato una sezione della mostra Barbie the Icon proprio alla famiglia di Barbie. Sì, la sezione numero 3 della mostra è dedicata alla famiglia. Questa famiglia però è molto, molto moderna, questa famiglia fatta di sorelle, di un fratello, di amiche del cuore, di amici. Ken ovviamente, perché Ken poi appare nel 1961, tanto Ken è più giovane di Barbie, quindi... Beh, già lei ha il fidanzato più giovane. Già lei aveva... Grandissima, poi grandissima punto, Barbie. Lei aveva già il fidanzato più giovane e anche Ken lo presentiamo in tutte le sue trasformazioni, perché così come Barbie ha avuto nel corso di questi 6 decenni tutta una serie di trasformazioni a livello facciale, a livello anche, se vogliamo, ingegneristico, di struttura, lo stesso vale per Ken. Il Ken oggi avrebbe la barba, sarebbe più hipster. No. La cosa curiosa è che oggi Ken è stato comunque rimodellato, e l'aspetto curioso è che il viso di Ken dal 2012 in avanti è molto più simile al fidanzato, comunque a quell'amico del cuore di Barbie, Blaine, che Barbie incontra su una spiaggia dopo la rottura con Ken, quindi nel 2006, e che poi lascerà, rispetto al Ken originale. Quindi i tratti fondamentali, diciamo, di Ken degli anni 60, 70, ma anche anni 80, sono stati un po' abbandonati a favore di un'immagine un po' più fresca e un po' più simile a quello che a metà appunto degli anni 2000 era diventato poi l'amico del cuore di Barbie. Quindi si crea secondo me un po' di ambiguità in questa situazione, cioè, ma è Ken o è Blaine, punto di domanda. Io non credo che verrò a visitare la mostra, io credo che verrò proprio a trasferirmi al MUDEC, certo, al Museo delle Culture, perché già sono pazza di questa Barbie di Icon. Ti chiedo solo un flash, Massimiliano, qual è la cosa più curiosa che vedremo dal 28 ottobre? Sono tante, sono veramente tantissime. Io credo che uno degli aspetti più interessanti, dal momento che siamo ospiti del Museo delle Culture, poi la sezione Dolls of the World, dove Barbie si trasforma in oltre 50 figure femminili che interpretano usi e costumi delle nazionalità più disparate e differenti, e quindi a partire dalla travel del 1964, in cui Barbie diventa giapponese, diventa svedese, diventa africana, fino alle ultimissime collezioni in cui sono stati ricostruiti trucco, parrucco e appunto soprattutto il guardaroba di veramente delle civiltà e delle culture di tutto il mondo. Quello è un aspetto estremamente interessante e che deve anche far molto riflettere su questo giocattolo che alla fine è un collante tra le diverse culture. Allora, Barbie the Icon al MUDEC, Museo delle Culture di Milano, dal 28 ottobre al 13 marzo 2016. Grazie al curatore Massimiliano Capella. Presto, Massimiliano. A presto, arrivederci. Io andrò a trasferirmi in questa mostra, sono già pazza di Barbie the Icon. Noi ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio delle 17, perché sarà il momento di aprire il nostro RadioTube.